armi all'interno delle università e delle scuole. Stando all'articolo su Indipendente, Leonardo avrebbe utilizzato profitti record nel 2023. Un aumento di fatturato quasi del 4% che riguarda tutte quante le divisioni aziendali. Ma c'è un'altra notizia importante che non riguarda soltanto i ricavi e gli utili, ma anche i valori delle quote azionarie, perché sono letteralmente schizzate alle stelle. Non parliamo solo di Leonardo, ma delle azioni in borsa di tutte quante le aziende produttrici di sistemi di arma. C'è una notizia che riguardava appunto il ruolo dell'Italia nel genocidio del popolo palestinese. Leonardo aveva negato di avere venduto, insomma, armi a Israele. E invece, stando a quanto scrive l'Indipendente Online, un alto ufficiale dell'esercito israeliano su un sito specializzato che si chiama Israel Defense ha sostenuto che i missili che colpiscono la striscia di Gaza sono stati lanciati da cannoni fabbricati in Italia, cannoni della Oto Melara, che è un'azienda controllata da Leonardo. E l'osservatorio sulle armi nei porti mediterraneo, The Weapon Watch, ha ovviamente poi scritto più di un documento con il quale confutava il luogo comune secondo il quale gli italiani non sarebbero partecipi alla guerra in Israele. O meglio, la partecipazione viene determinata anche dalla vendita di armi a Israele. E quest'articolo sull'Indipendente ci ricorda, ad esempio, non solo l'aumento esponenziale delle quote azionarie di Leonardo, ma ci dice anche che i risultati migliori di fatturato e anche di valore delle sue azioni sono proprio cresciute prima con la guerra in Ucraina e poi con la guerra a Gaza. Quindi la guerra, i conflitti bellici determinano un successo economico per le imprese di armi, come sempre accaduto. Questa è una questione che è stata sollevata proprio subito dopo le vacanze natalizie, quando Papa Francesco aveva rifiutato una donazione da 1,5 milioni di euro per l'ospedale pediatrico Bambini Gesù di Roma da parte di Leonardo S.p.A. Aveva assunto una posizione molto chiara il pontefice, a cui Leonardo rispose che in tutti i teatri di guerra in corso, dall'Ucraina al Medio Oriente, non c'è nessun sistema offensivo di nostra produzione. E invece, stando a quanto dice The Weapon Watch e anche l'articolo dell'Indipendente, invece questa dichiarazione viene inesorabilmente smentita, nel senso che non solo nella guerra di Israele contro la popolazione palestinese si diceva che non erano presenti delle armi di Leonardo, ma in realtà le armi ci sono e sono state impiegate in azioni di bombardamento indiscriminato contro le aree urbane, contro gli ospedali e contro le scuole. Parliamo poi dei cannoni navali super rapidi della Oto Melara, una fabbrica controllata da Leonardo con sede alla Spezia, in Liguria, e cannoni che sono stati consegnati nel settembre del 2022 alla Marina Militare Israeliana, che ha la sua sede che è stanziata presso la base navale di Haifa. Sempre l'osservatorio sostiene che l'azienda è presente direttamente nello Stato ebraico con varie partnership e con vari stabilimenti per la realizzazione di quel sistema di protezione attivo che si chiama Iron Fist, che viene montato sui mezzi corazzati da combattimento dell'esercito israeliano e anche nelle prossime settimane sui grandi bulldozer blindati Caterpillar D9. Quindi c'è stata poi anche un'inchiesta di Altra Economia che ha preso in rassegna tutte le statistiche del commercio estero e ha evidenziato come l'Italia non solo avrebbe inviato munizioni e armi a Israele anche in seguito ai fatti del 7 ottobre, ma da anni ormai ha uno scambio commerciale di armi che sta aumentando esponenzialmente. Leggiamo testualmente che è uno smacco, insomma, per Altra Economia per il governo Meloni, che in più occasioni aveva dichiarato invece di avere sospeso, di avere bloccato l'esportazione di armi verso Tel Aviv. Erano dichiarazioni arrivate all'indomani del 7 ottobre del 2023. E conclude dicendo, pur ipotizzando che i 230.000 euro di ottobre siano partiti prima del giorno 7, i dati di novembre coprono un periodo in cui i bombardamenti sulla striscia di Gaza erano comunque già pesantemente iniziati. E una smentita che arriva anche da questo articolo dell'Indipendente di Stefano Baudino. Ricordiamo che all'indomani del 7 ottobre sia il ministro degli esteri che il ministro della difesa italiana avevano dichiarato formalmente che il governo italiano aveva disposto la sospensione della vendita di armi allo Stato ebraico. Fatto sta che oggi, nel genocidio del popolo palestinese, ci ritroviamo numerosi sistemi di arma di produzione italiana che l'Italia ha venduto in cambio di tecnologia high-tech largamente avanzati, di sistemi satellitari di ultima generazione. Questo è stato lo scambio avvenuto per anni fra Italia e Israele, il che ci induce a pensare che non bastano delle dichiarazioni ufficiali, bisogna porre fine a quel trattato economico e militare che lega l'Italia a Israele.